Dialogo ottavo. Raccontò Abdullah bin Omar: l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, era solito dire: per ogni cosa c'è una sostanza che la rende brillante, e ciò che rende brillante il cuore è il ricordo di Allah. Non c'è nulla che possa salvare dal castigo di Allah fuorché il ricordo di Allah. Una volta gli chiesero: nemmeno lo sforzo per la causa di Allah? Rispose: neanche se il combattente ci mette tanto ardore che la spada gli si spezzi.